Hola, hola, hola, processore disinserito. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Ora lo inserisco. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. E funziona. Mighty Game. Hola, hola, hola. Ecco qua, funziona. Hola, hola, hola. Hola, hola. Mighty Game chiuso. Così è chiuso, anche se non dovrebbe. Ecco qua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aumento. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Disinserisco il processore, 1, 2, 3, 1, 2, 3, inserisco, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ti portavi come un suono di pendolo. Disturbava, no? Pensi a voce sia. Fazi a don. Perché ho messo il preamplificato, so. Ho messo il preamplificato, le Gaeta Pros. Ah, così già va benissimo, a voglia se va bene. È un bobo questo, questi costano malattosso, questi costano parecchio. Senti, sono 2 anni questo qua, questo ce l'ha da parecchio questo microfono. E vanno bene, va. C'ha anche l'eco, c'ha anche il bipi anche questo qua. Aspetta, adesso vediamo un po' l'eco se c'è. Ma c'è l'eco? Sì, già c'è. È forte pure. Ma non mi piace l'eco, ma bisogna lasciarlo senza. Che meglio, là, quando è. È un signor microfono questo qua. Sì. E tu che non l'hai usato, lo sai? No, io ce l'ho sopra l'apparato, quello preciso al tuo. Ce l'ho sopra. Se no che mi dare il fastidio. Ah, comunque questo va benissimo, no? Sì, è la buia. Chiara è forte anche. Ok. Vabbè, 4 watt, cazzo. Oh, vabbè che siamo vicini, sto cosa per pretendere. Cazzo. Ah, che troppo, 4 watt, perché siamo vicini, capito? Però di meno non va. È a zero, eh. A zero il coglio. Di che puoi immaginare? No, già va benissimo così. È a buia. Tata. Già va bene, sì. È chiara la voce. Già va benissimo. Ti fa piacere che sia, sia buona, là. Almeno ogni tanto abbiamo qualche cosa utile. A voi, e poi ti sento benissimo, anche se va a girare il cisorda, ti sento benissimo. Già entro, anche se senti poco, già entro con l'orecchio la radio mia, vai. Cazzo, siamo vicini, cazzo, per forza. Siamo vicini, anche tu sei in fondo scala, sì, Siamo 9.30, bloccati, si blocca 9.30. Vuol dire che oggi è... Bravo. Sei portato a zero, sei io lo metto sotto spirito, lo metto per essere più forte. Ma se mai avete così forti? Ma, abbiamo 2 chilometri, non manco buono, cazzo, per mangiare, bisogna aumentare, no? Ma questa aumenta, questa è 12 watt in AM, e il banda sto 40 watt e sto. Infatti è così che funziona, è così che deve funzionare. Oh, se giro e non aumento, il bandero non esce, devo per forza aumentare almeno a 5 watt, allora già esce. Sì, no, infatti è così. Infatti è così, per uscire forte deve uscire con 5 watt. E infatti devo aumentare il power, certo. Anche le ferme e in banda devo aumentare, se no non esce, capito? Purtroppo sono fatti così questi qua. E vabbè, va bene, 3B. Io sono cazzettone che venga lunedì a farmi sta cosa. Ecco, certo, ancora bisogna che lunedì da passare, domani e dopo domani, certo. E la faccia piano piano, certo che è una rottura di scatole quando lo senti bene, certo. Poi adesso infatti io cuffie non ne ho perché non c'è mia moglie qua, la televisione spenta, io mi metto sempre in cuffia, come un cuffie sento fortissimo, anzi se queste cuffie sento più bene con le cuffie che con lo sto parlando il suo. Oh, te ne dovresti mettere, solo che con le cuffie è troppo gallo nella recci. Ma devo trovare un paio di cuffie buone, poi ci sono cuffie, ho preso la trulle, allora me la faccio pagare 30 euro, allora lo servono, cazzo, sono piccoline, per cui non ho... Cazzo, ce le avevo, ci sono quasi, ma io l'avevo preso a Pisano. Niente manco quando era Fusori di Armando Diaz, cazzo, avevo pagato 15.000 lire allora, ma erano grosse, si regolava il volume dalle orecchie, capito? E c'è qua se ci ho buttato, sono questi qua, sì, vanno bene ugualmente, però non sono perfetti come quello buono, capito? E quello buono con i regolatori delle cose, del volume, quelli costano un sacco di soldi, meno di 150 euro non li trovi. Con 50 euro non li trovi, 150 magari. 150 euro ho detto, meno di 150 euro non li trovi. Lo so che costano parecchio, infatti. No, cazzo, la parola, quanto li spendo si può dire per le cuffie? Mi lascio queste, già sento ugualmente, anche se sono piccoline va bene, però quelle là sono perfette, sono proprio a basse, capito? Per cui va bene ugualmente adesso, certo i 50 euro non saranno. Cazzo, hai per gli assaggiati di qua, non sarà attorno. Infatti, è proprio malissimo. A me, trattare in cuffie, né più. Che mi cagli la reci? No, manco se pure del begoso. Non da da parte. È vero, che voce oggi, ma non sempre. E poi per questo hai sentito troppo acuta, capito? La radio la senti troppo acuta. Mentre quelli là, quegli altri buoni, cazzo, quelli, cazzo, la radio la sente perfetta, cazzo, tutta un'altra cosa, là, questi sono andati questi qua, ma prima o poi già li trovo a buon prezzo, qua, me li compro un paio, vai. No, quelle che ho io le ho prese a Lido, le avevo prese. E c'hanno il coso grande, la cuffia grande, c'hanno. Hanno già pagato 8 euro l'abbiamo pagato. Cagato per pure. Non l'hanno più messo da ridere. Io l'avrei preso anch'io, non l'hanno mai messo, perlomeno. Metto sa casa di cosa, ma proprio cuffie lo. Ho preso ultimamente la maschera per saldare, quella automatica, capito? Quello ho preso, ma le cuffie non le ho viste mai a dire. Io le ho prese l'anno scorso, le ho prese quelle con la cuffia grande, infatti le ho viste e le ho prese. Questa gettata, questo è il viraggio, solo che hanno delle buone narareci, senti bene, però senti il calore negli orecchi. Vabbè, che regolo il volume quelli grandi che c'hai tu, quelli vanno benissimo, ma queste qua sono piccoline, hanno quelli che metto sulle orecchie, che sono piccoline, saranno 5 centimetri di circonferenza, tondi, capito? Questi sono minorelli, no, quelle che ho io sono con la cuffia grande, sono 10 centimetri. Quelli sono perfetti, quelli possono andare bene. Ma se li trovo già li prendo. O se ti capita a vederli, basta dimmi un to che li compro. Nel volantino devi guardare sempre. Io ho il coso nel telefono e guardo nel volantino, guardo nel volantino se ci sono. Non c'hanno, fratello. No, ma giuro che non li so più ponendo. E vedi un po' se ti capita, me lo dici. Se ne ho già presi, li prenderò sempre anch'io, capito? Va benissimo, va benissimo. Infatti è così. Tanto. Fabio, tra cosa? Mi dico, a me mi cadi la reccia, mi cadi il trucco. Non le metto per quello. In estate è peggio, capito? Magari in inverno no, c'è più fresco, per cui vanno bene in inverno, in estate no. Infatti se fanno sudare le orecchie, capito? Io con le cuffie, se c'è la televisione a chiesa, mi metto le cuffie, specialmente siccome siamo sempre insieme qua, lì si accende la televisione e io accendo il baracchino, e per cui metto le cuffie per non disturbare la ricezione, capito? Sono comode così. Sono comode, però... Intendo che tu garori nella reci, non mandassi a me, dici io specialmente. Io ho sempre usato, adesso per esempio, cuffie non le sto usando perché la televisione è spenta, non c'è nessuno, capito? È in cucina lì, guarda la TV. Quindi che allora ti ho messo il nostro parlante supplementare e ti sto ascoltando con il nostro parlante supplementare. perché questo palazzo di ferro è buonissimo, c'è un condensatore dentro, un trasformatore c'è dentro, è poco bisatto. Quale? L'altro palazzo intermittente che sto usando adesso in questa baracchina. Oh, gli hanno messo un condensatore di quelli lunghi. Casa pesante c'è, perché c'è il trasformatore, c'è, certo. E la radio esce bella piena che un bambù. Se metto gli altri invece c'è più acuta, eccetera. Invece questa è perfetta la radio. Hanno messo un condensatore di quelli lunghi, gli hanno messo. Ma ce dovrebbe essere attaccato oltre al condensatore anche una resistenza. Infatti, ho visto che c'hanno questo trasformatore. Così via. E poi è buono, è buonissimo. Questo era della bravo di Mario, era che l'aveva sull'apparato console, quello da base, per cui me l'aveva data a me e già ce l'ho ancora. E sarà 14 per 14 quadrato sto. Già è buono, a buglia, si pesa dei demoni. Quando ho preso questo baracchino, mi hanno dato un altro palazzo, piccolino sto, c'era 6x6, bello, piccolino, anche quello lì, anche se piccolo si sente bene, però non ho messo. E ce l'ho messo da una parte. Ce l'ho anch'io quello piccolino altoparlante esterno. Ce l'ho anch'io, ma non so, non è che si intende assai voci. Non mi piace assai, più che altro è per la macchina. Mi hanno dato insieme al baracchino, quando ho preso il baracchino, capito? Me l'avevo fatto quando ho preso il 5005. Sulla scatola c'era questo altro palazzo piccolino, infatti per la macchina quello va benissimo. Sono per la macchina quelli lì. Lo mettiamo in un posto nascosto. Devi mettere perché c'ha l'affare che si aggancia alla staffa piccolina. Quindi ci mette in un posto nascosto. L'ho provato in macchina va benissimo. L'ho provato in macchina, va benissimo, si sente bene pure, perché magari lo sto parlando su, rimane sotto, metto invece questo esterno, rimane più in su e lo sento perfetto, anche in macchina. E infatti è così, con quello esterno lo metti nascosto e lo senti bene, lo senti. Perché ti fa anche l'amplificazione. Cos'è l'abbiamo? L'abbiamo un po' imbriato in toro, per carità. Prima abbiamo indorrato il girare, abbiamo indorrato tutto quanto. Sì, c'era un problema, che non ti indorra di nulla. E allora, lì c'è un problema, che non ti indorra di nulla, perché c'era pagato, tutto pagato, per cui non dobbiamo niente a nessuno. Siamo tranquilli, insomma. Io già giù buccio, che hanno la presa raggio più, raggio buccio un foglio, una bacia di tetto tutto, di canto buccia la goccia, c'erano i venditi, avevano i brici. Stamattina ne ha attaccato tre. Prima l'899, cioè, lo ha attaccato, l'ho fatto scaldare almeno una mezz'oretta e più, era attaccato. Dopo ho staccato, ho rimesso dentro la scatola e ho attaccato il 2000. Un'altra mezz'oretta l'ho fatto scaldare e dopo l'ho rimesso dentro la scatola. Dopo cosa ho messo? Dopo ho messo il presidente Barri. Anche quello, dopo un'altra mezz'oretta, tutti e tre li ha fatti scaldare per una mezz'oretta e li ha rimessi dentro la scatola. Certo. Ero manco vero che ho mangiato, quindi ero fuori, non potevo fare nulla. Ero, stavo facendo cova poi, e sono rientrato un pochettino tardi, quasi per mangiare. No, io non sono andato nel suo posto, perché ero lì, si è annoiato. E ha dovuto fare questo cosa che ti ho detto. Io ti ho fatto scaldare un pochettino, almeno per i condensatori, capito? E poi ti ho rimesso, perché io insolito uso questo, è quello l'ultimo che avevo preso, capito? E per cui, anzi, penultimo. Perché questo è il 6009, questo è quello con display azzurro. Quello che avevi tu è... quella che ho dato a te a provarlo, quello lì c'ho adesso. E quello si sente bene, è a buglia, certo. Questo l'apparecchio è nuovo, perché è nuovo? È stato cambiato solo quel finale, basta che era un pezzo di gozzo. Funziona bene, va benissimo. Nuovo, l'apparecchio è nuovo. Cosa funziona? Poco e niente questo. Perché avevo altre attaccate, queste usavo poco e niente, qualche volta lui. Magari questo avrà, non dico poco, 10 ore di funzionamento sto. Non si può immaginare, non ha funzionato assai. Sono poche 10 ore. Certo, è nuovo nuovo, si può dire. E allora, se è mancato il gas, quando si era guasto, me l'avevo comprato un altro nuovo preciso. Ecco lì è dentro la scatola. Certo. Che se ne mancava? No, mi mancavano altri, 5.500. Ma sono gli altri 5.500 anche, quello lì. Che è dentro la scatola, quello lì. Però mi sembra che questo realmente dentro la scatola sta con l'altro 5.500. L'ultimo che avevo preso, che ha fatto vedere la scatola. La scatola, ti ricordi, mi sono mandato la foto. Ehi, certo. Andiamo, mi piacciono, quando una cosa ti piaccia a me, se posso me la prendo, se non le posso, lo avrei potuto lo avrei preso, no, mi piacciono, me la so preso, anche se che ne uso sempre un, però un po' uso uno, un po' uso l'altro, faccio così, so. Non abbiamo niente a nessuno, tutto pagato, sono tranquillo. Ma fate così. Perché altro bisogna fare così, bisogna fare. Non ci credo, sono tranquillo. Mi piace averlo, capito? Anche se non lo usa, che se ne frega, mi piace averlo. Vuol dire che me lo guardo se non lo voglio accendere. Infatti. Un domani tocca a venderli tutti quanti. Ok, ho abbassato il scotch e posso sentire qua il REM. Di qua il REM ce n'è poco e nulla. Ah, ma c'è il cabro il REM. A 5, 4 e 5 ce l'ho il qua il REM. Anche io ce l'ho così. Cioè, a poco a poco non ce n'era il qua il REM, abbassa il cabro. Ho capito, ecco. Non è che c'è il qua il REM. Io sento le voci di un altro canale. Ho detto 4 e 5. E tu quanto ne hai? È la stessa cosa, però sento le voci di un altro canale. Non sento nulla io, Sento solo a te, perfetto, è un bombo. Andiamo. E così, ecco. Cazzo, già di 8 me lo vedo. Come passa l'ora, ragazzi? Sì. Piano piano se passendo, pure oggi. Domani devo uscire a fare un po' di spesa, domani faccio un giro, ora qui, capro, a lì, e a lì devo pure passare domani, faccio un giro completo. E anche io devo fare il giro per fare la spesa. Devo scendere alla Cona di Viale Porto Torres. Che allora la Cona sa pure puoi fare, mi devo prendere il latte. Che se l'ho persa mi prendo un paio di cartoni di latte. la cosa pure. E il giro completo ha fatto. Lui si è fatto io. Anche io faccio così. Per tutta la settimana, amica, più. Che farò scaloce tutti i giorni, scendo a comprare questo, a comprare lo scalo. Compri quello che ti serve per tutta la settimana, c'è trascuro. Poi, se dovessi succedere qualche altra cosa, un attimo a scappare, a prendere, capito? Sì, infatti, l'unica cosa è far così, e vabbè, piano piano, già andremo. So, e a Gianmarino. Gianmarino, stai uscendo, c'è solo portante. Non stai uscendo, Giovanni? E adesso? Adesso sì. Pensavo, c'ho un telo, come ho tirato il telo, ho abbassato dalle feste e lo stavo uscendo per quello. Vabbè, sto chiudendo, ci sentiamo domani se coincide, ok? Buon presidimento a tutti. Sì, ok, Giovanni, ci risentiamo. Ciao, Giovanni, stammi bene.